valigia viola, la borsetta della gola e poi arrivi tu. La giacca colorata, la busta dei regali ed un berretto del Perù. Le pagine di un album che aspettano con ansia delle novità. Le foto di filmati, le avventure che hai passato in quante città. Chissà dove sei stata, da quando sei partita di un po', quante persone hai incontrato laggiù e quanti buoni amici hai in più. Quando hai voglia di cambiare, chiudi gli occhi immaginando dove andare. Quando sai che puoi partire, c'è una mappa, un posto nuovo da scoprire. È il richiamo di una forza, è una voglia che vuoi sempre accontentare. Ed il tempo inframmezzato alla partenza sembra sempre non passare. Hai già deciso il viaggio, chissà quanto coraggio serve per arrivare tutta sola fin là. Comincia con un primo passo e poi chissà che cosa accadrà. Gira, gira mondo, non ti fermi mai. Gira, gira mondo, chissà adesso dove andrai. Gira mondo, scrivi per me le tue più belle avventure. Gira, gira mondo, non ti fermi più. Gira, gira mondo, guardo il mondo dai tuoi occhi blu. Ma prima di partire, perché tu non inviti anche me? Neanche il tempo di tornare, e stai già per ripartire, dimmi dove vai. Sei già in preparativi, tra biglietti e cedolini non ti stanchi mai. Valigia tieni in spalla, quando piove con il sole so che non resterai. Ti aspetto un alba d'oro, un tramonto variopinto che racconterai. Per ogni porto, per stazione, lasci giù un pezzo di cuore, anche se forse non ci pensi, l'hai donato anche qui. Ricorda che dovunque andrai, il mondo sarà più bello così. Gira, gira mondo, non ti fermi mai. Gira mondo, quanti altri viaggi tu farai. Gira mondo, sempre in cammino a vincere le tue paure. Gira, gira mondo, non ti fermi più. Gira mondo, cresci ed abbandona le tue schiavitù. Ma prima di partire, perché tu non inviti anche me? Gira, gira mondo, via per le città. Gira, gira mondo alla ricerca di opportunità. Fra gusti e profumi diversi, specchio di mille universi. Gira, gira mondo, non ti stanchi mai. Gira, gira mondo, ma una casa proprio non ce l'hai. Ma prima di partire, perché non inviti anche me?